Sì, amore, te la compro la borsetta di Hermes. Va bene, amore, stasera ti porto fuori. No, amore, non le guardo le altre. Ho smesso di farmi le seghe. Già, per questo ho deluso il mio pubblico web. Ho smesso di farmi le seghe. Già, da quando ho deciso di stare con te. Per vivere in modo migliore. Già, per essere conforme al sistema. Già, ma questo concetto d'amore. Già, sta già diventando un problema. Comprami, comprami. Tu sei il mio ragazzo, Coco, comprami, comprami. Ascolta, comprami sto cazzo. Comprami sto cazzo, sì, comprami sto cazzo. Non ho più voglia di diventare pazzo. Comprami sto cazzo, sì, comprami sto cazzo. Non ho più voglia di diventare pazzo. In fondo per vivere bene. Già, a me basterebbe del pane. Già, in fondo per vivere bene. Già, a te servirebbe un filone. Il mondo nel quale viviamo. Già, è già contornato d'amore. Già, e quando ce ne accorgeremo. Già, nessuno potrà più sentire. Comprami, comprami. Tu sei il mio ragazzo, Coco, comprami, comprami. Ascolta, comprami sto cazzo. Comprami sto cazzo, sì, comprami sto cazzo. Non ho più voglia di diventare pazzo. Comprami sto cazzo, sì, comprami sto cazzo. Non ho più voglia di diventare pazzo. Ritornerò a farmi le seghe. Tac. Ritorna al mio giorno di festa. Già. Ritornerò a farmi le seghe. Tac. Lo faccio in segno di protesta. Tac. Un modo al dir quanto banale. Già. Che serve però dire basta allo schema comportamentale. Già. Ormai ci ha fottuto la testa. Comprami, comprami. Tu sei il mio ragazzo, Coco, comprami, comprami. Ascolta, comprami sto cazzo. Comprami sto cazzo, sì, comprami sto cazzo. Non ho più voglia di diventare pazzo. Comprami sto cazzo, sì, comprami sto cazzo. Non ho più voglia di diventare pazzo.